Thank you. Ecco. Ricevendo. Se ci fosse qualcuno che suona, non dovrebbe essere più. Ma non è più niente, non lo sappiamo. Questo sta suonando o no? Sta suonando? Sembra di sì. Non bene. Recibo, recibo. Se forse non è, che la, tutto... non è che la scheda è... Dove bisogna andare per vedere la scheda? È abbassata. Non può vedere che è la... Cioè se te mangi un MP3 ora sì. Ma intanto copiamo un attimo questo, ma vorrei che poi... Perché sei, perché sta passando come principale su quell'altra. Ah, certo. Ah, ecco. Perché c'è il microfono del computer? Ci dobbiamo andare. Ci butano fuori.